Un cappello color crema. La nuova scuola sorgeva in un angolo della concessione del signor Wilkins, poco distante dalla casa. Quando ci entrò per la prima volta, quel lunedì mattina, Laura scoprì che era una replica esatta della scuola di Perry, fino al dizionario sul leggio, accanto alla cattedra e al chiodo nelle pareti per appenderci la cuffia. Questo è di buon augurio, pensò tra sé ed ebbe ragione. Non ci fu giorno in quella scuola che fosse per lei sgradevole. Ormai si sentiva sicura di sé e riuscì sempre a risolvere ogni difficoltà non appena si presentava, di modo che non si trascinasse mai fino all'indomani. Gli scolari erano educati e obbedienti, i più piccoli a volte erano così buffi da strapparle un sorriso, anche se lei cercava di non darlo a vedere. Stava a pigione dai Wilkins, che erano cordiali con lei, affettuosi gli uni con gli altri. Florence andava a scuola tutti i giorni e quando tornava le raccontava le novità. Dormivano nella stessa camera e trascorrevano la serata piacevolmente insieme, ognuna china sui suoi libri. L'ultimo venerdì di aprile il signor Wilkins le dette 22 dollari, che era la paga del primo mese di lavoro, meno 2 dollari la settimana per vitto e alloggio. Quella sera al Manzo la portò a casa e l'indomani Laura andò con mamma in paese ad acquistare i tagli di stoffa per il corredo. Comperarono fine mussola bianca per i capi di biancheria intima, camiciole, mutande, sottovesti e camicie da notte, due di tutto. Tra queste e quelle che hai già, sarai a posto per un pezzo, disse mamma. Presero anche della mussola più robusta, sufficiente per 2 paia di lenzuola, federe comprese. Poi scelsero diverse lunghezze di delicata batista rosa con un disegno a fiorellini e foglioline verdi da farci un abito estivo e passarono alla bottega della signorina Bell a cercare un cappello da intonare all'abito nuovo. Ne videro diversi, tutti graziosi, ma Laura non ebbe dubbi. Scelse subito un bel cappello di paglia color crema con la tesa non molto larga che si restringeva ulteriormente ai lati. Sul davanti le scendeva fino a metà fronte. Intorno alla cupola correva un nastro di raso di una sfumatura appena più scura e sul lato sinistro svettavano 3 punte di piuma di struzzo di 3 diverse sfumature di colore, dal panna del cappello fino a un crema un filo più scuro del nastro. Per tenerlo al suo posto sulla testa c'era un'elegante cordicella elastica bianca di seta che quasi non si vedeva perché restava nascosta sotto la massa delle folte trecce di Laura. Uscendo dalla bottega, Laura offrì a mamma 5 dollari del suo stipendio perché si comperasse qualcosa di bello per sé. No, Laura, rispose mamma, sei molto cara ad avere questo pensiero, ma non ho proprio bisogno di nulla. Papà le aspettava davanti al negozio di Fuller. Nel cassone del carro c'era un oggetto grosso e ingombrante nascosto sotto una coperta. Ma non ebbero tempo di guardare cos'era perché papà aveva già slegato i cavalli e partirono subito. Che cos'hai lì dietro, Charles? Chiese mamma. Te lo faccio vedere quando arriviamo. A casa, papà fermò i cavalli davanti alla porta. Prendete i vostri pacchetti, ragazze, e scendete pure. Il mio acquisto lasciatelo lì finché torno dalla stalla. Vietato sbirciare sotto la coperta. Chissà che cos'è, disse mamma a Laura. Pochi minuti dopo, papà tornò dalla stalla e sollevò la coperta. Sotto c'era una scintillante macchina da cucire, nuova di zecca. Oh, Charles! Esclamò mamma. Sì, Caroline, è tua, disse papà, fierissimo. Avrai parecchio da cucire nei prossimi mesi, tra Mary che viene a casa e Laura che se ne va. Ho pensato che ti sarebbe servito un po' di aiuto. Ma come hai fatto? Chiese mamma, sfiorando con le dita il lucido ferro nero delle gambe della macchina. Beh, dovevo comunque vendere una vacca, Caroline, perché altrimenti quest'inverno non abbiamo posto per tutte le bestie nella stalla, spiegò papà. Ora, se mi aiutate a scaricare questo aggeggio, gli leviamo la fodera e vediamo com'è fatto. A Laura venne in mente che molto tempo prima, parlando di macchine da cucire, qualcosa nella voce di mamma le aveva fatto pensare che ne avrebbe desiderata una. Papà doveva esserselo ricordato. Tolsero la sponda di fondo del carro e tutti e tre insieme sollevarono la macchina e con grande attenzione la portarono in soggiorno. Carrie e Grace vennero di corsa a vedere anche loro. Poi papà sollevò il coperchio della macchina e restarono tutte ad ammirarla in silenzio. È bellissima, disse mamma infine, e quanto sarà utile! Non vedo l'ora di cominciare a usarla. Ma era sabato sera. L'indomani, domenica, l'avrebbero lasciata stare. Nel corso della settimana mamma studiò il libretto di istruzioni e imparò a far funzionare la macchina e il sabato, quando Laura tornò a casa, si misero al lavoro sul vestito nuovo. Era una stoffa così fresca e leggera e i colori erano così graziosi che Laura non osava tagliarla per timore di sbagliare. Mamma, invece, che vestiti ne aveva fatti tanti, non ebbe esitazioni. Prese le misure di Laura, poi col suo cartone da sartoria preparò i modelli di carta e infine tagliò la stoffa senza paura. Fecero l'abito stretto in vita, con due serie di piegoline sul davanti e due dietro. Sul davanti, tra le piegoline, correva una fila di minuscoli bottoncini di madreperla. Il colletto di stoffa doppia saliva diritto, le maniche erano lunghe, ben aderenti alle spalle e al busto, finite con un orlo della stessa larghezza delle pieghe. La gonna era molto ampia, raccolta con eleganza al cinturino in vita, che si abbottonava sopra l'orlo del corpino per impedirle di scivolare verso il basso. Su tutta la lunghezza della gonna girava tutt'attorno una serie di pieghe orizzontali a distanza regolare, sotto l'ultima delle quali si inseriva una ricca balza increspata, alta una spanna, che arrivava giusto a sfiorare la punta delle scarpe. Quando Almanzo la portò a casa, l'ultimo venerdì di maggio, Laura trovò il vestito finito. Oh, com'è grazioso, ma! Esclamò non appena lo vide. E come sono regolari e perfettamente impunturate tutte le pieghe! Beh, devo dire, osservò mamma, che non so proprio come ho fatto a tirare avanti finora senza quella macchina. Diventa tutto così facile, anche le pieghe non sono più un problema. E guarda che punti precisi e regolari, non c'è sarta che possa eguagliarli a mano. Laura tacque per qualche istante, osservando il suo bel vestito nuovo, poi disse: Il signor Wilkins mi ha pagato un altro mese. Non ho proprio bisogno di questi soldi. Ho ancora $15 di aprile. Mi servirà un abito nuovo per l'autunno. Sì, è anche un bel vestito per il giorno in cui ti sposi, intervenne mamma. $15 dovrebbero bastare per tutti e due, disse Laura. E quelli più le cose che ho già mi basteranno per un pezzo e poi avrò altri $22 il mese prossimo. Ti prego, ma usali per il biglietto di Mary quando verrà a casa, oppure per i vestiti di cui avrai bisogno. Ce la facciamo senza che tu debba privarti di quello che guadagni in questo tuo ultimo trimestre a scuola, ribatté mamma con calma. Lo so, ma ci sono tante cose a cui tu e pa dovete far fronte. Io vorrei contribuire ancora questa volta, per bilanciare il fatto che poi me ne vado e non vi aiuto più, e anche che ho tutte queste belle cose nuove. Mamma sorrise. Se ti fa piacere così, allora dalli a tuo padre. Ha speso il ricavato della vendita della mucca per la macchina da cucire e so che gli faranno comodo. Papà si stupì, disse che quei soldi potevano servire a lei, ma quando Laura gli fece lo stesso discorso che aveva fatto a mamma, fu ben lieto di accettarli. Beh, mi daranno un po' di respiro, disse, ma questa è l'ultima volta. D'ora in poi penso che navigheremo in acque più tranquille. Il paese sta crescendo in fretta. E ci sarà sempre più bisogno di braccia. Anche le bestie vengono su bene. Figliano che meglio non si potrebbe e l'anno prossimo avrò vinto la scommessa con lo zio Sam. E la fattoria diventerà nostra. Non devi più preoccuparti di aiutarci, scricciolo. Hai fatto la tua parte e alla grande. Quella domenica sera, quando Almanzo venne a prenderla, Laura aveva il cuore gonfio di gioia e di soddisfazione. Ma sembra ci debba essere sempre qualcosa di cui rammaricarsi. Ora pensava che non sarebbe stata a casa quando fosse arrivata Mary. Doveva venire in settimana e lei quel giorno sarebbe stata alla scuola di Wilkins. Quel venerdì Almanzo venne a prenderla con Prince e Lady che trottarono spediti per tutto il tragitto. Quando furono davanti alla porta, Laura sentì venire da dentro le note dell'organo. I cavalli non si erano ancora fermati, che lei era già saltata giù e correva dentro. A domenica! Le gridò dietro Almanzo e lei sventolò la mano con l'anello a mo' di saluto. Un istante dopo abbracciava Mary, senza neppure lasciarle il tempo di alzarsi dallo sgabello. E la prima cosa che Mary disse fu: Laura! Che sorpresa è stata trovare un organo qui! Abbiamo dovuto mantenere il segreto per un bel pezzo, rispose Laura. Ma non si è rovinato per questo. Mary, fatti vedere, stai proprio bene! Mary era più bella che mai. Laura non si sarebbe mai stancata di guardarla. E poi quante cose da raccontare, non tacevano un istante. La domenica pomeriggio salirono ancora una volta sulla cima del Dosso, dietro la stalla, e e Laura le raccolse tante rose da riempire le braccia. «Laura!» chiese Mary facendosi seria. «Ma davvero vuoi andartene di casa per sposare il ragazzo Wilder?» Anche Laura si fece seria. «Non è più il ragazzo Wilder, Mary, è Almanzo. Non sai nulla di lui, vero? A parte la storia del frumento, quell'inverno durissimo». «Sì, la storia del frumento me la ricordo, naturalmente, ma perché vuoi andartene di casa per stare con lui?» insistette Mary. «Beh, forse perché sembriamo fatti l'uno per l'altra», disse Laura. «E poi, di fatto, sono già andata via di casa. Sono via sempre più spesso. Comunque non sarò più lontana di quanto sono ora alla scuola dei Wilkins». «Sì, così vanno le cose, immagino. Io sono andata via di casa per frequentare l'università. Tu te ne vai perché ti sposi. Il fatto è che diventiamo grandi». «È strano se ci pensi», disse Laura. «Carrie e Grace sono già più grandi di quanto eravamo noi due quando loro non c'erano, e anche loro crescono. Ma sarebbe molto più strano se restassimo sempre uguali e non crescessimo mai, no?» «Eccolo che arriva», disse Mary. Aveva sentito il calesse e gli zoccoli di Prince e Lady e nessuno avrebbe potuto immaginare che fosse cieca a vedere i suoi begli occhi azzurri guardare da quella parte, come se vedesse. «Non ancora arrivate, già te ne vai. Vado dopo cena, ma torno venerdì prossimo, e poi avremo tutto luglio e una buona parte di agosto per noi». Alle 4 in punto dell'ultimo venerdì di giugno, Almanzo fermò Barnum e Skip davanti alla casa dei Wilkins per portare Laura a casa. Mentre percorrevano quella strada ormai così familiare, disse: «È così? La scuola è finita per l'ultima volta?» «Sei sicuro?» chiese Laura con un improvviso moto di timidezza. «Perché? Non siamo sicuri tutti e due?» rispose Almanzo. «Verso la fine di settembre sarai tu a farmi le frittelle a colazione, a casa nostra». «Sì, o se no, poco dopo», disse Laura. Lui aveva già cominciato a costruire la casa sulla sua concessione piantata a bosco. «E il 4 luglio, intanto, vuoi andare alla festa in paese?» «Ah, preferirei di gran lunga andare a fare un giro in calesse», rispose Laura. «Bene, anch'io», disse lui. «Questi due stanno diventando di nuovo un po' indisciplinati. Ho lavorato alla casa in questi giorni e hanno fatto poco moto. È ora di fargli passare la voglia di correre con una di quelle nostre belle trottate lunghe». «Quando vuoi, ora sono libera». Laura era felice, si sentiva come un uccello uscito di gabbia. «Allora, la prima corsa lunga della stagione la facciamo il 4 luglio», disse Almanzo. Quel giorno, subito dopo pranzo, Laura si mise il vestito nuovo e inaugurò anche il cappello color crema con le piume di struzzo. Quando Almanzo arrivò era pronta. Barnum e Skip stettero fermi mentre saliva sul calesse, ma si vedeva che erano nervosi e volevano andare. «La folla li ha eccitati attraversando il paese», disse Almanzo. «Andiamo giusto fino a Main Street perché tu veda le bandiere, poi prendiamo a sud, lontano dal bacano». La strada che portava alla concessione dei Brewster era così cambiata che non sembrava più quella che avevano percorso tante volte l'inverno in cui Laura aveva avuto il suo primo incarico da maestra. C'erano diverse baracche nuove sparse qui e là nella prateria e qualche casa e molti campi di grano già alto. E c'erano mandrie e cavalli al pascolo. Invece di essere tutta bianca e percorsa da folate di neve, la prateria era tutto uno svariare di sfumature verdi, ma il vento c'era ancora. Soffiava da sud ed era caldo. Increspava l'erba e il grano nei campi, levava la criniera e la coda dei cavalli, sbatteva le frange della coperta, tutta ben rimboccata per proteggere dalla polvere il bell'abito nuovo di Laura, e fece volare via le piume di struzzo dal cappello. Laura le acchiappò per un pelo con la punta delle dita quando stavano per sparire nel vento. «Oh no!» esclamò. «Non erano state cucite bene!» «La signorina Bell non è stata qui all'ovest ancora abbastanza», osservò Almanzo. «Non sa cosa sono i venti della prateria. Meglio che me le metta in tasca io quelle piume prima che tu le perda». Era ora di cena quando furono di ritorno e Almanzo si fermò a mangiare con loro gli avanzi del pranzo. Tacchino freddo, un bel pezzo di pasticcio, la torta, una brocca di limonata fatta con la buona acqua fresca del pozzo. A tavola, Almanzo si offrì di portare Laura e Carrie a vedere i fuochi d'artificio in paese. «I cavalli si sono mossi parecchio oggi e penso che si comporteranno come si deve, ma mamma disse, Laura può venire naturalmente se vuole. Ormai è abituata ai cavalli da circo, ma Carrie meglio di no. E così Almanzo e Laura andarono da soli. Si fermarono a una certa distanza dalla folla per non rischiare che qualcuno venisse investito e calpestato. Trovarono uno spiazzo vuoto e se ne stettero lì fermi finché la prima scia di fuoco si levò sopra la folla e nel cielo esplose una cascata di scintille. Alla fiammata Barnum si impennò, Skip dette una sgroppata e come le zampe toccarono terra di nuovo stavano già filando a tutta velocità col calesse dietro. Almanzo li lasciò andare e facendogli descrivere un ampio cerchio, li riportò faccia ai fuochi, giusto nel momento in cui partiva un altro dardo luminoso. Non preoccuparti dei cavalli, disse a Laura. A loro ci penso io, tu guarda i fuochi. E così fece Laura. Dopo ogni esplosione, lassù nel buio, Almanzo riportava i cavalli al punto di partenza, appena in tempo per vederne un'altra. Non se ne andarono finché le ultime scintille non si furono spente del tutto. Allora Laura disse: Meno male che le piume sono ancora al sicuro nella tua tasca. Le avessi avute sul cappello sarebbero state strappate via di sicuro a correre così in cerchio. Le ho ancora io? Disse Almanzo stupito. Spero proprio di sì, così le posso ricucire al loro posto. Le piume erano là. Quando furono davanti a casa, Almanzo gliele porse dicendo: Vengo a prenderti domenica, questi cavalli hanno davvero bisogno di muoversi. Tempesta d'estate. Quella settimana fece un gran caldo e la domenica mattina in chiesa Laura ebbe la sensazione che le mancasse l'aria. Dietro i vetri saliva a ondate il fiato baluginante dell'afa e piccole folate torride correvano nella prateria. Quando uscì trovò Almanzo che l'aspettava sulla porta per accompagnarla a casa. Aiutandola a salire sul calesse, disse: Tua madre mi ha invitato a pranzo e dopo facciamo correre i cavalli. Farà molto caldo, ma sarà comunque più gradevole essere fuori che stare in casa, sempre che non faccia tempesta. Beh, le piume sono ben fissate adesso, disse Laura ridendo. Che tempesti pure. Dopo il pranzo gustoso che mamma aveva messo in tavola, uscirono in calesse, presero verso sud per la vasta prateria ondulata. Il sole picchiava impietoso e perfino sotto il tettuccio l'afa era opprimente. Invece del vento costante fresco della corsa, giungevano strani sbuffi caldi. Davanti a loro il calore creava un tremolio argenteo che sembrava acqua e si allontanava via via che avanzavano. Piccoli vortici giocavano nell'erba, attorcigliando furiosamente gli steli, ora qua, ora là, e poi passavano oltre e sparivano in alto. Dopo un po', grandi nuvole nere cominciarono ad addensarsi a nord-ovest e l'afa si fece ancora più intensa. Strano pomeriggio, disse Almanzo. Meglio tornare verso casa. Sì, e in fretta anche, disse Laura. Non mi piace questo tempo. La massa di nuvole andava salendo rapidamente. Almanzo fece voltare i cavalli, li fermò e passò le redini a Laura. Tienili tu che io metto su le tendine, sta per piovere. Passò dietro il calesse per slegare le cinghie che tenevano arrotolata la tenda posteriore del tettuccio, la srotolò e la fissò agli appositi ganci al fondo e lungo i montanti, in modo da chiudere tutta la parte dietro del calesse. Poi prese le due tendine laterali dal vano sotto il sedile e le agganciò al tettuccio e alle pareti laterali, così il calesse era chiuso su tre lati. Tornato al suo posto, srotolò la coperta impermeabile di gomma e infilò la piega che c'era al fondo sul bordo superiore del cruscotto. Era della misura esatta, sicché la coperta restava ben ferma. Laura notò, piena di ammirazione, che aveva perfino un buco rotondo che veniva a cadere proprio in corrispondenza dell'anello in cui era infilata la frusta. E c'era una fessura, riparata da un'aletta, in cui passare le redini per tenere le mani al riparo. La coperta, poi, era larga abbastanza da ricadere sopra le pareti laterali del calesse ed era sagomata in modo da salire ad agganciarsi lungo i montanti anteriori del tettuccio. C'era voluto un attimo a montare tutto ed eccoli chiusi dentro quella specie di scatola impermeabile con la coperta che arrivava fino al mento. Restavano fuori giusto il naso e gli occhi. Riprendendo le redini, Almanzo esclamò: E ora che piova pure! E fece partire i cavalli. Sì! Se proprio deve piovere, disse Laura, ma magari ce la facciamo ad arrivare a casa prima che scoppi la tempesta. I cavalli andavano velocissimi, ma ancora più veloce, con un brontolio minaccioso saliva la nuvola nera e si allargava nel cielo. Laura e Almanzo la guardavano preoccupati. C'era un gran silenzio intorno, come se tutta la terra fosse ammutolita dal terrore. Il battito cadenzato e veloce del trotto e i sottili scricchiolii del calesse, sollecitato dalla corsa, suonavano minuscoli in quella muta vastità. In cielo, la grande pancia nera si contorceva e si gonfiava e si avvoltolava come animata da una furia interna. La attraversavano inquietanti bagliori rossi, ma l'aria era immobile e non si sentiva rumore. L'afa aumentava. Laura aveva i riccioli della frangia incollati alla fronte. Rivoli di sudore le colavano lungo le guance e sul collo. Almanzo spronava i cavalli. Le nubi erano ormai quasi sopra di loro e, gonfiandosi ancora, mutarono dal nero a uno spaventoso viola verdastro. Parvero raccogliersi un istante e poi cacciarono fuori un dito, un lungo dito tentennante che si allungava e si allungava come volesse arrivare a toccare la terra. Ci arrivò, si ritrasse e scese di nuovo. «Quanto dista?» chiese Laura. «Ma una decina di miglia, occhio e croce», rispose Almanzo. Il dito veniva verso di loro, da nord-ovest, loro andavano verso nord-est, ma nessun cavallo al mondo avrebbe mai potuto andare più veloce di quelle nuvole. Rotolavano lassù, sempre più vicine, sempre più basse sulla prateria spaventata, con quel dito che sembrava voler solleticare la terra e giocare come fa il gatto col topo. Un altro dito uscì dalla pancia dietro il primo, poi un altro ancora, e tutti e tre si allungarono verso la terra, tornarono su e scesero di nuovo. Poi tutti e tre piegarono un poco verso sud e uno dopo l'altro toccarono terra sotto la gran pancia violacea, correndo velocissimi come le nuvole che li portavano. Passarono alle spalle del calesse e via verso sud-ovest. E di colpo si scatenò un vento furioso così forte che il calesse sbandava. Ma la tempesta era passata e Laura tirò il fiato, tremante. Fossimo stati a casa, Pace avrebbe mandato in cantina, disse, e io ci sarei andata di corsa. Ci sarebbe servita una cantina fosse venuta in qua. A me non è mai capitato di scappare da un ciclone in cantina, ma non mi è mai neanche capitato di vedere arrivare una cosa come quella di oggi, disse Almanzo. Il vento girò di colpo, veniva da sud-est ora ed era freddo. Grandine, disse Almanzo. Eh sì, disse Laura. Da qualche parte la nuvola aveva scaricato la grandine.